c'è un po' di cose, non so come raccontare. Porto sea, no, se pacca, se pacca. Cazzo, ce ne sono... Sono 69, 72, 80, che cazzo è questo? Qua, 35, 36, la top. 16 D. Questo 6H non l'avevo mai sentito. Come cosa, la verità, ma comunque sia, è strano. La questione 61, 64. Sono in primavera adesso. Questo sì, che non ho capito cosa sia. Sono 69 frequenze e non ho capito cosa vuole. No, Antone, non ti capisco però. Cosa intendi SH? I numeri si dite. No, c'è scritto così nelle portatile, se e H. Non ho capito che frequenze sono. Sono 69 ce ne sono. Non ho capito cosa diavolo sia. A cosa corrisponde, capito? È già programmato questo apparecchio qua. Ah, quello Midland. E saranno delle sigle, ovviamente in inglese, che indicano alcuni canali usati per alcuni servizi, che ne so, tra unità e unità, tra unità, cioè tra terra e mare, che ne so, servizi emergenza, servizi di portistica, boh. Questo l'ho programmato io, l'ho programmato mio cognato questi. Non so cosa sia. Ma il PMR tu sei? No, non ho acceso, cioè è acceso sì, ma non sento niente il PMR. Adesso schiaccio, guarda. Vuoi tre, manda giù. Abbastanza. Prova, cioè ti senti anche tu, mettiti un paio di cuffie. Così ti ascolti. Parla e sei tranquillo, così ti faccio la ponte. Beh, non parli, bello, bello, non parli. No, non ho le cuffie. Non ho le cuffie. Cioè, c'è già una... Sono le notte, dai. Mamma mia quanto sei basso. Pensa che sei addirittura più basso. Non è che sei in FM stretta tu, no? Boh, io ho provato, stretta, larga, non cambia, boh, qua non cambia. Ma dove per me? Sì, ho provato a sentirti in stretta e larga, ma non cambia, boh. Dimmelo qua, dimmelo in 27, che non sento bene, non sento bene. C'è scritto M. Ma M di Milano, N di Napoli. N di Napoli, NATO in pratica. Ah, ecco, aspetta. Vediamo un po', adesso mi metto anch'io. Ho detto, Marco, quello lì è quello che mi devi far sentire. Aspetta, c'è Antonello che sta parlando su, non ci capisco niente. Devo abbassare il volume, Antone, scusa, devo abbassare il volume in PMR, se no non ci capiamo. Dimmi, Antone, fai la domanda. Ho detto, quello è quello che mi devi far sentire. E quale ti devo far sentire? Aspetta, non mi ricordo cosa ti avevo scritto, boh, e quando? No, tu mi avevi detto che c'è Villotto 99, cos'era? E quello lì era? No, Pomponio ha l'898, non ero io. Ah, sì, scusa, perdonami un po'. Sì, te lo scrivo, dai. Io ho avuto l'898, io c'ho bomba. Scusa Anto, sono esaurito io, no, non mi ricordavo a cosa lo devi, dai. Ma tu mi avevi detto, c'è una cosa del genere, mi avevi detto. Sì, sì, eri già putto. Eri con quello, eri con quello che vi perfettamente bene. Eia. Aspetta che mando foto. Avvedaggi no, dimmi. Comunque l'autore c'è veramente bene. Perché io l'ho avuto e Marco mi ha detto che usciva veramente forte. Ne ho avuto un paio di portate di quelli. Azzeccati, guarda, così veramente bene. C'è da Marino, ce li ha quelli. Ma io, zio, tu senti a Marino quei due portatili, non pensi mai come siano in corso, escono veramente forti di radio, sono tablati bene di circuito, di tutto, eccetera, eccetera. Cappa, io ci posso credere, no, già, davano bene già, adesso vediamo. Vediamo un po' come sarà il mio, perché l'ho portato a fare, ma no, l'ho portato da una persona che è competente, dai. Vediamo un po' cosa ne esci. Ah beh, quello sì. Dammi tempo, Antoe. E a ciò che non via. Mamma mia, però le fa risaltare una bella polvere il flash. Micro polverina, micro. In realtà a occhio sembra pulito. Porca miseria. Ah, poi c'ho ancora la plastichetta sul frontale. È quella che fa anche quell'effetto. Un attimino. Uglielo il flash. Che telefono c'hai? Huawei. La marca preferita da Trump. No, io ho Redmi, Xiaomi ho scelto. Perché c'è una bomba. Io c'ho picchi, dico la grossa. La Mac che c'ha la moglie di Trump. Ma buona, perché io la grossa. La marca che piace alla moglie di Trump, Melania, perché io la grossa, tanto lui ormai ha fatto un tubo fra poco. Finite le elezioni, sta tranquillo che lui fu tutto. Vabbè, oh. Cioè, diciamo tante cose, però un po' di cose va ragione. Ma cosa, lui? E poi giù di qua, è caso. Lo sai che lui mette solamente paura e basta. Tutti armati, hai capito? Che cazzo ne fa fare gente armata con la pistola? Ma hai detto un imbecille, cazzo, che ha bisogno di coso? E tutto incasinato, va a sapere, dimmi. È una gaggata, Antonio. Ricezione è come i portatili. Piglia colpi da tutti. Da tutti, dai ripetitori cellulari, della radio FM, stesso discorso, e dai ripetitori TV. Qualsiasi segnale RF li tronca la ricezione. Il ricevitore invece non ha problemi, non ha alcun problema a ricevere. Il ricevitore è solo ricevitore, capito? Sempre lì siamo. Spero che ascolta il messaggio. E mi ti ho detto una cosa adesso. Vabbè, la verità, se l'888 ha funzionato sempre bene, c'è quello che sto pensando io, non ho mai avuto problemi. Noni, Antonei, noni, non è quello, un altro pianeta. No, non un altro pianeta, è la stessa porcheria, però diversa forma, dai. Ok, non lo so, che apparato stai dicendo tu, qui non so cosa dirti. Però l'ho portato l'ho avuto io, anzi, due l'ho avuto io, sono andato sempre bene. Ci da Marino funzionano veramente bene, se sono quelli. Della Baofeng, se sono altre cose, questo non lo so, se sono cinesi, GFK, eccetera, eccetera, questo non te lo so dire. Vabbè, ce ne sono parecchie che hanno lo squelch. Uno squelch eccetera eccetera e non servono un tubo. Quelli ce l'ho in casa della Giovanna, quelli non c'è un accidente proprio, sono molti. A meno che non sia vicino. Capo. bianco un attimo, un attimino che non riesco a... ci vorrebbe il Vox, riuscire a avere le mani libere, dai. Mi raccomando, quindi il V5 di Pop Plus e se la biglia in cubo qui. Tu li porti a mano, esassare col dischetto, ti fai 3-4 frequenze e vaffanculo. Per il resto non ti interessa niente. Anto. Però qua mi ha mandato una cosa che a me piace. Mi piace come è fatta. Beh, ce l'ho io quello. Se non l'ha pigliato un amico mio, che l'ha preso perché vuole mettersi per dove lavora quegli apparati lì, te l'ho preso e lo usi cosa ti posso dire? In TMR con me. Per una settimana lo provi e così ti rendi conto di quanto pompa, di quanto riceve, eccetera eccetera. Quanto gusta che sta parecchio? Arriva 25, quanto mi ricordo io, la verità. A meno che ci sia qualche sconto, questo non posso dire. Non è male, comunque quello lì è tipo stazione fissa, cioè ci vuole l'antenna sul tetto, così. No, questo qua è portatile. Ma cosa? Abbiamo parlato in due, mannaggia. Ehi, aspetta. Quello che stai facendo tu in pratica, Marco, va bene, però lui gli serve un po' tatti, il discorso è quello, hai capito cosa gli serve? Io te che uso quello, ce l'ho anch'io una cosa del genere, lui vuole un po' tattile, tipo V5 di Pro Plus, oppure un 16 canali PMR, hai capito? Per il momento, tutto lì. Ehi, comunque Anto, già lo troviamo il modo di programmare quello che hai preso, dai, lo proviamo. No, già, sta andando, va. Ah, già risolto? Sì. Buono. Quasi risolto. Lui deve essere uno da mettersi in pratica. Nella volta che lo c'è, dopo l'altro usarlo in casa, cos'è quello lì? Oppure due lì per lavoro, tra lui e il collega, hai capito? E uno sta come base, il discorso è quello, io penso che sia così la questione. Cosa un gratuito, boh. Già va bene così. E beh, lo so, ma l'importante è che ci vuole per forza, il discorso è quello. Scappa, e comunque ho notato che quel Boffing è là, quello che ti ho fatto vedere pompa bene, va benissimo. Chi ci andava a vero? Siccome stavo pensando adesso una cosa, allora, in seguito, non ti passavo adesso, credete se questo, quando tu utilizzerai, che sei autonomo, in pratica ti prenderai, ti posso dire, la patente, eccetera, eccetera, che tu hai un patto di viaggi da fare, ti installi l'antenna, hai capito? Siccome queste parti sono... il PMR li potrai usare, il discorso è quello, quindi in pratica per metterti in contatto con quello che c'hai, diciamo come collega, eccetera eccetera, vi sentite tutto lì, a meno che tu non le fai il contrario, cioè in pratica mettetelo in... appena ti prendi la patente per la macchina, che tu senti tua moglie, il discorso è quello. Stavo pensando solamente quello io. Va bene, poi vediamo come fare. Io stavo pensando a quello. E tu vuoi fare così. Un esperimento così se vuoi pensare di fare. Perché non c'è nessun problema per fatto. Lo farate subito. Da questo, non è che lo farò così poco a distanza più che altro. No. Si può fare. La prova e vedere fin dove arrivi. Quanto lo sia. Hai capito? Vabbè, non so, manca parecchi da Dini, eccetera, eccetera, così, allo sbaraglio. E che te l'ha detto? Quel dato, ma le prove si fanno, no? Fin dove arriva, diceva quello. Che fai la prova, c'è il giro di Bellini, ci corrono i Sassari, ti fai la prova e vedi un po' che fin dove arrivi, e poi deciderai tu per dire, ecco. Da oggi in poi posso usare il telefono per risparmiare, mi conviene usare per dire questo aggeggio qua, tanto non mi cambia niente nella vita e parlo subito, il discorso è quello, quello che voglio dire me. No, ma è meglio WhatsApp, perché ti rimangono memorizzate e sai cosa devi fare. Perché se non esce un casino, capito? Lì magari te lo dice e poi magari ti dimentichi che dica che cosa. Invece su WhatsApp te lo riascolti e segni. E non te ne dimentichi delle cose. Antonè. Vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io stavo ragionando per dire se c'è una vita. Posso usare il telefono? Perché scusate. Come posso dire, un'altra storia, cioè in pratica, posso usare il telefono, mi prendo per dire o PMR, oppure la 27, oppure i 43 megahertz, come si faceva prima per dire, ti facevi tutto Sassari, circondario, ti mettevi la parte in moto e poi adesso ho visto che il moto non lascia più nessuna parte, non lo vedo più nessuno, a un certo punto il discorso è quello lì, usare il telefono oppure il, come si chiama, il cellulare, WhatsApp, ti lascia messaggio, poi devi rispondere, eccetera eccetera, capito? Non è che parli in simultaneo, il discorso è quello. Più sicuro è WhatsApp, a me me le passano su WhatsApp, è più sicuro e le guardi e sai tutto. Avanti Marco. Ehi Antonè, io no, ne ho stracciato tutto, è tanto immondezza sta roba, dovrei metterlo qua. No, ma in poche parole Antonè, siccome il discorso non lo seguivo più, cosa gli stai consigliando? Di usare il PMR in macchina per comunicare con la ragazza? Cioè esponendolo a un rischio terrificante, quando basterebbe mettere in macchina un baracchino, niente più licenza, niente dichiarazione utilizzo, libero uso, non rischia niente. Perché mettere il PMR? Che poi non è un PMR, è un bao bao. Oppure c'è, come si chiama quella meravigliosa applicazione che usavamo un tempo? CB Talk, simula il baracchino, te lo porti dove vuoi, anche al cesso. È eccezionale, è il futuro della frequenza, della 27 quella. Ma se non venisse un paio di proprietà col muro? No, ma dico, se Bombolo avesse necessità di modulare con la ragazza per commissioni quando lui è lontano, no? No, perché Pomponio gli proponeva, credo, di mettere il PMR in macchina, e gli ho detto, ma lo sai che se lo beccano in macchina col bao bao, minimo 2000 euro di multa? Cioè, il baracchino è libero uso, tanto vale usare quello, niente bollettino, niente domande da fare, libero uso, non rischia nulla, direttamente si usa il baracchino, no? Aspetta, non stavo dicendo quello, stavo dicendo solamente di solo per la foto, più che altro. Cioè in pratica posso usare la 27, il 43, poi ci faccio una prima, tanto lui non è che faccia tutti questi giri strani, eccetera, eccetera, hai capito? Allora, mentre a me va a far culo, a un certo punto. Con quei Guardatevi. Tutto lì, no? Fidanzata, vabbè, fidanzata se vuole parlare un conto, ci parla quando vuole, già lo sai che tu. Per dire, ma è più che altro per lavoro. Poi ci sono varie opzioni, puoi usare per dire quello che hai detto tu, come prassi. Il problema è che sei sempre ritracciabile, il discorso è quello, perché se tu guardi bene su, sanno dove sta parlando lei, sanno dove sta parlando tu, se qualcuno sta a casa tua, che è ritracciabile, stavo cercando questa signorina qui, ci ho parlato, mi è sembrata simpatica, eccetera, eccetera, come su Google, già lo sai che anche tu, è un casino, ti trovano immediatamente, stanno due abiti, ti aspettano sotto, ma queste, tutte queste zoccole che c'hai tu, se la vicinità mi mandano, tutte bloccate gli occhi. Non ho capito niente, no, io non ho mandato zoccole mie, dillo a coso a Ignazio, carta, non mie. No, tutte queste che tu e zoccole che ci sono su Facebook straniere, tutte la vicinità me l'ho mandato. Sì, quelle sono di Ignazio, già lo sai, di una farmacia, non mie. Già lo sai. Cazzo, ne avevano una quarantina di zoccole. Cazzo, ma ogni giorno cazzo ne becca, una ne becca. Io amicizia di genere non ho più, già lo sai. Perché la maggior parte ci sono tutto mal da fanculo. Ah, c'era poca gente che voleva soldi, cazzo. Sono una... Un giorno mi ha mandato questa qui, ti giuro, qua. C'ho la fotografia che te la faccio vedere. Mi ha mandato la fatto vedere la valigia piena di dollari. Dice, ti voglio mandare 5 milioni di euro. Dice, dammi i dati tuoi. E così, così dice, mi ritiri tu. A un certo punto, dice, quando vengo io in Italia, dice, perché sono un marista americano, mi ha detto cosa c'è, ho parenti in Italia, vengo, mi ritiro, ha giocato qua, tu sei tutta scema, gli ho detto. Ma ce la faccio a farmi mettere in galera, cazzo, per 5 milioni di dollari, ma tu sei tutta matta, gli ho detto. Cazzo, mi ha lasciato il biglietto all'Inter. Che cosa ti sta dicendo? Lo sto guardando io, cazzo, non è vero. Vabbè, ma è forte della Madrid, però. Sì, la piglia di oggetti dall'Atletico Madrid. 4 bubucci. In Europa sono più forti loro, non c'è niente da fare. Non c'è nulla da fare, no? Ma c'è pure una famiglia con lui, io vi auguro, figlio del gnognò. Antonello c'ha questa mania, c'ha oia, la siete la più di Facebook, il buon genio Maro. No, io con la mania non ce l'ho, grazie a Dio. Mi ricordo che mi arriva qualche amicizia, Pio, ce la vado a far culo. Cazzo, ma ti pare, cazzo? Dice, sono un marista americano, mi ha detto. Donna, eccetera, eccetera. Ti faccio vedere, ti mando la foto della magia che mi ha mandato. Tutta piena di dollari, ha giocato a fare una cosa, ha detto, io le vorrei in galera per te, gli ho detto. Prima cosa, ha detto, vai, cercati qualcun altro, e tu arrangiati, gli ho detto. A me non vuole fregare niente, dice, l'abbiamo, dice, rubata, dice, gli afghani. Dell'ISIS, cazzo, ha giocato a fare, vai, ha giocato a farmi ammazzare. Io dire il culo, tu e gli afghani, gli ho detto. Perché Torello, vabbè, non dico cognome, amicizia in comune, tutti l'hanno bloccato, una cinquantina l'hanno bloccato, ma qui sono tutti maci, insomma, tutti maci. L'ha fatto vedere l'attrezzo e dopo l'ha ricattato, cazzo. A me non me l'ho ricattato mai, a Giuseppe sì, ma a me no. Volevo dire, a casa tu l'hai detto. Allora c'è un camma. Volevo dire, tu l'hai detto, cazzo. Cazzo, Giuseppe ci sa che è un pollo. Ma a me non mi ritorna, io lo sai, quindi mi ha toccato sai a me. Tutte amiche di Leonardo Farmacia, che ne sono al minimo 200, tutte qua, tutte quante. ogni giorno ne ha una a casa, ogni giorno. Se tu controlli il sito della farmacia, guarda, è tutto pieno. Cioè, è vero che è divorziato e non c'è più con la moglie, ma a casa è una cosa allucinante, ogni giorno ne ha una a casa. Poi mangia sempre ristorante, mangia, chissà perché. Beato lui. Ma che ne varia? Cazzo di aria. Cazzo, non lo volevo dire io, poi ti sei capato, vabbè. Cosa l'ha fatto vedere, Anton? Il Giulivelle. Sì, gli ha fatto tutte le cose, lei si è un pochettino denudata, dopo l'ha fatto vedere l'attrezzo e gli ha detto, beh, adesso tutti denuncio, non so cosa cazzo te l'ha fatto. Oh, ragazzi, non me l'ho raccontato, l'ho bisciato, vero? Ragazzi, l'ingenuità, cazzo, allucinante, si dice. Ma come che non ha Gio Facebook e nulla, ciu ciu. Sì, vabbè, da voi qua, non è che sia tanto. Vabbè, ma tenete a fare queste cose, cioè non sono così a fare. Vabbè, sono qua, volando la partita. Praticamente la ricarica, cioè prima l'ha illuso e poi siccome lui lo sa che è debole, l'ha illuso e lui c'è cascato, tutto lì è discorso. Beh, certo, sono cose che possono succedere, non è che... Però bisogna stare attenti quando si è davanti al computer, quando... capito? Sì, con questa gente, perché non è gente seria, è gente mezzo esaurita. Vabbè, dai, riprendete, già sono qua. Oh, chi è vada con di voi? Io no. Cattolcio, non so, adesso non avevo la tacchetta nel telefono. Non c'ho nemmeno la tacchetta. Mi sa che vado a cagare questa volta. Io c'ho o mobile che è Vodafone, però ci ho ripetito le a 30 metri. Cosa, Marco? Io c'ho o mobile che è Vodafone, però c'ho anche ripetitore davanti a 30 metri. No, c'è un colpo di tacchetta, niente. Adesso una. Adesso una, ce la vediamo. Aspetta, una le ho. Adesso con la sassa, cioè su cui... in campagna non prende, per esempio, in campagna del padre di Marina. La tassa se deve prendere. Una tacchetta solo. Per carità. Giamba, io c'ho quindi 3, favoloso. Tutto manetta, anche a casa, da tutte le parti. Io me ne sono fuggito da Wind, Cristo. Vabbè, adesso avranno migliorato le cose. Comunque lui è vero, c'è dove abita mia zia Olmedo. Per esempio c'è una zona d'ombra dove Vodafone non prende una chicchia. Si è dovuto mettere Iliad fondo scala, che poi usa i ponti Wind 3 e Iliad, capito? Allora te lo dicevo io. Quando era Wind era una cosa, adesso Wind 3 e teoricamente ho iniziato con la 3. Adesso c'è anche la Wind in mezzo, c'è Iliad, stanno comandando loro, si mangiano la team, la Vodafone e quanti c'è. Capito? Ma l'ho consigliato, quindi l'ho fatto. Vabbè, dai, continuate, già sono questo, volevo partire. Per esempio, da me, nella camera mia da letto, per Iliad è zona d'ombra. Proprio in camera prendeva malapena. Perciò mi sono rotto le scatole, sono passato a Omobile alias Vodafone. Va bene, dai, io dopo il delirio di Antonello, che non ho capito nemmeno di cosa stavo parlando, se di mignote, di PMR, di baracchini, io chiudo e mi attacco alla TV. Antonello, riprendi, dai, già ci sentiamo. Dai, ciao Claudio, Antonio, Luca, a tutti, Antonello, quando riprenderà, dai. Corretti esecutivo, ciao. Ciao Marco. Ciao, buonanotte Marco, buonanotte a tutti, dai. Ciao ragazzi, buonanotte. Pure io avevo messo il gioco, grazie, gioco, ce l'ho tutta la di a palla gioco. sempre vendere roba. Buonanotte Claudio, buonanotte a te Marco e buonanotte a te Luca, buonanotte a tutti in generale. Antonio chiude, a che sarà con me. Ciao ciao. Ciao Antonio, viene tutto il diritto, hai lavorato tutto il giorno, è giusto essere push, ciao frate, a domani. Ciao ciao, buonanotte. Poi noi stasera abbiamo lavorato qua, siamo venuti a casa, 10 minuti, abbiamo fatto un culo. Ehi, era stato in gruppo, 10 minuti. Va bene, dai, domani è giusto quando la partita, solo che la stai guardando. Vedi, rimane il gatto in destra, dirà l'Inter. Cazzo, quanto è falloso questo gatto di Vidalo, sempre lui. Non ho capito perché così, a me la liscio mi è entrata a martello. Che... Secondo me vale in 5. Cosa? Che rimane in 5 secondo me. Non dice rimane, continua a uscire, che è già munito. È già graziato, al prossimo farlo se lo puoi fuori. Aiutati. Io la sto guardando qua. Sì, la sto guardando qua in stanza, allora stanno guardando un altro programma. Ciao Marco, comunque, e poi voi dato chi cavo era, non mi ricordo adesso il nome. Perché mi sono sentato con Simona e mi sono distratto. Ehi Antonio, chiuso che stanno. Ciao Antonio, anche a te salutoni da parte mia. Buonanotte, buon tutto domani. Comunque l'antenna esce adesso, Mitra. L'ex 300 esce bene, c'era il cavo che era tutto quanto incasinato, ho dato quasi un metro. No, già ti ho sentito, si è fondo scala di nuovo, già va bene, l'altro giorno non stava andando bene. E ho messo la parte che mi ha regalato Giovanna, e esce bene, esce veramente bene, sono contento di quella. Mi pensavo che era una bella pezza, guarda, mi sembrava strano. Boh, ha detto nuova nuova, ha detto che faccia una cosa del genere. Mi sembrava veramente, veramente strano. Vabbè, adesso me la metto da parte, me la tengo da una parte e va a far cuffia. Insieme all'apparato. Adesso metto la parte in come. Come si chiama? Là? Via esso, ho detto in scatola con quarantenna, adesso io apro il medico di sopra, piglio l'indicatore 50 A e vedo tutto in blocco, antenna, via esso e alimentatore. Ma so che io, Clari, l'ascolto troppo forte, o... Troppo amplificato. Sto usando il microfono una volta, si sente? Sì. Ti porti tutto il televisore dietro, non si compra una mazza. Da 87 a 87, non ce n'è. Guarda adesso diminuito. Che senso ha? Esce tutto sparato, non si capisce niente. Fa un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 1 adesso il microfono. Allora, se lo lasci così, poi domani ce la faccio a 5. Adesso va bene, allora. Pensavo uscire più basso. 10. No, io adesso l'ho messo a 10, bene fa. Sì, perché? Okay, io ti sento bene. E non è troppo alto. Marco, troppo alto, confermi. Per le mie orecchie delicate sì. Sì, ma Antonello era veramente spropositato poco fa di volume. Si sentiva la TV troppo amplificata, Antonello. Non ci siamo capiti. Ha parlato così, già lo sai Marco. No, 87 esce un bel forte. È l'unico apparato che ho io. Che esce così, così forte. Marco di Saturn Eco esce così, la verità. È stato bene con le 4000. Aumentate il microfono così non ce la prende con me Gianfranco, cazzo, ha qualcosa da dire anche a voi, ogni volta dice cosa a me. Che disgraziato che sei, cazzo, Gianfranco cosa? E allora, ogni volta a vedere cosa a me, microfono alto, le spurie, il ripetitore, cazzi e mazzi, aumentate il microfono, almeno ce la prende con voi un po', cazzo. What the heck is this about? sentire una volta a me la verità, perché mi ha detto che stai scendo male, adesso non va bene così, stai scendo da schifo, tu te sfudi e poi c'è Arboni che non so dove, eccetera eccetera. Un giorno ti giuro, guarda, mi è dispiaciuto, ma l'ho mandato un culo la verità, ma poi vabbè, ho lasciato perdere. Se non parli con qualcuno, come che cavolo parli a un certo punto? Devi sopportare, il discorso è quello lì. L'altro giorno già ti ho capito che mi ha dato un culo per quello, che non ci hai parlato. Ma vabbè, dai. Vabbè, non è che esca meglio lui, Con che microfono che esce lui è tutto soffocato, sembra che sia un microfono soft, sembra. Tutto strano, esce, non lo so. Mi sembra la modulazione, te lo ricordi di tanto tempo fa di uno che modulava, adesso non mi viene in mente il nome. Vabbè, comunque sia. Esce tutto strano, la verità, come modulazione. Vabbè, è paccata quello che è, però è strana, non c'è una modulazione chiara, capito? Sembra soft, sempre rimane. Infatti che è una gaggada. No, è anorma, si dice anorma, non è strana. Voi siete troppo amplificati. Vai, girati le balle, vai. Tu, la radio, Edo, io modulo come mi pare, mi piace. Se mi vuoi ascoltare, mi ascolti, se no faccio altri 40 canali. Lo sapevo, rispondere così, ovvio, via. Noi siamo sempre lì. Guarda quanto è bello il mic originale, eh? Bello, riposante, pacato, guarda che bello, chiaro, limpido peraltro. Luca, c'hai ragione, sto uscendo bene. Di lusso. Visto? A me non mi interessa come fanno gli altri, io dal 1987 chiuso le 1060 e nessuno me lo toglie, capito? Questa è la mia modulazione, non chiedo niente a nessuno, non chiedo controlli, a meno che non sto facendo qualche lavoro, so che esco bene e va bene così. A Gano le Biaggi, bisogna altre 39 canali. Oia, dai, sono rimasto un pochino in più perché tanto in TV non c'è niente di bello. Però adesso faccio QRT esecutivo davvero, cerco di seguire una trama, se riesco a quest'ora perché è un po' ardua. Dai, di nuovo rinnovi i saluti, Luca, Bombolo se l'ascolto, Pomponio, Claudio, sentiamo quando capita, ok? Ciao, ci sentiamo. Vai Pomponio. Stavo dicendo, la modulazione, quando parlava sembra Adriano Orlando, sembra, la verità. Quindi figurati tu. Quando modulava ti hanno dato era uguale. Comunque, Marco, ti conosco, inoltre che dici così come l'altro giorno, sto chiudendo, e poi sei rimasto fino a metà notte e mezzo, quasi da una sei rimasto, quindi. Claudio, anche l'altra notte, correte esecutivo, non riprendo, dopo mezz'ora, correte esecutivo, non riprendo, e dopo tre quarti d'ora, lo stesso, dopo un'ora, un'ora e mezza, alla fine abbiamo chiuso tardi, che ora era Antonelli? Boh, non tardissimo, erano le 11 in fare. Però c'è cos'è, i sintomi di chi ha la radio, il camera da letto, sul comodino, perché se te sei tutto qua lo messo sotto, io mi sto guardando la televisione, sto parlando con voi, sono 40 pollici a parete, quindi non me ne ha fatti nulla, e sono abbastanza rilassato, però non è che posso stare fino all'ora di notte seduto qua a piattirmi il culo, no? Capito? E quindi me ne vado a quel cazzo. Però chi ha la radio in camera da letto, come voi, è un casino, capito? Vabbè, io sono qua comunque, non c'è niente problema. No Marco, non sto scherzando davvero, lo dico con molta tranquillità, io non mando a far culo a nessuno, te lo dico, quando a uno qualcosa non le piace, ci sono altri canali, non perché stai nel canale 10 a rompere le palle con queste misurazioni, con queste cose, bim, bum, basta. A me nessuno, sottolineo nessuno, mi dice come devo modulare, cosa devo fare, con che radio devo modulare. Non si deve permettere nessuno, perché io mi faccio i cazzi miei e modulo con quello sei d'accordo, ciao, arrivederci, vai in un altro canale a parlare, che cazzo mi avrò per i coglioni. Sì, vabbè, ma quando ti fanno osservazioni sulla modulazione, cioè, te lo dicono per migliorare, non per fare dispetto, è che tu la prendi sul personale, ogni volta che ti toccano la modulazione subito parte in quarta. A me se mi dicono che sto uscendo male, troppo forte, abbasso appena appena, risolto, risolto, tu li dai. No, comunque Claudio, il baracchino non ce l'ho in camera, io sono nel salone, nel salotto, come lo puoi chiamare. No, in camera non c'è posto, poi non lo voglio in camera, ho provato una volta però non c'ho spazio per poggiare roba sul comodino. Però qua nel salone diciamo c'è il divano, certe volte mi allungo sul divano e mi addormento pure. Soprattutto ascoltando verso le 8:30 quando viene la biocco. Mi ci addormento qua, capito? Però in camera da letto mai più, mai più. Lo facevo tanti anni fa, però avevo anche lo spazio, adesso è tutto un casino, c'è troppa roba. Ci credi che io non. In camera non c'ho un tavolo, un centimetro libero per mettere, per poggiare nulla, è tutto immandito. C'è di tutto e di più. Eia, vabbè, chiudiamo il discorso però della modulazione. Io già lo capisco, io come ho detto l'altro giorno sono due modi di intendere la modulazione, cioè due modi di fare radio diversi, punto. No? Tutto lì, è inutile che siamo sempre più a girarci intorno, io poi le battute le faccio a livello di battute, mi Claudio, non te la devi prendere, anche quando ti dicevo l'uomo dell'armonica, no, non te la devi prendere, c'era una battuta, finisce tutto lì, dai, riprendi. L'armonica ce l'avete nel buco del culo, tu e lui, aggiungi l'armonica, gente, non aggiungi l'armonica io. Tu ricordati che io mi chiamo The Voice, come mai nessuno mi ha detto che esco male del radio, è lui che riceve male a tutti, perché ricevono quel cazzo del radio con i filtri stretti, radio americane, radio sofisticate, radio, poi un baracchino e si è a posto, capito? Mai nessuno mi ha detto che io esco male di radio, esco male, quindi nessuno si deve permettere di dirmelo, a meno che non ci sia un serio problema, allora è un'altra cosa, capito? Come stasera che mi si è abbassata la potenza e la radio perché è andato in corto un PL, ma io quando entro in radio entro per farmi sentire da 40 anni a questa parte, questa è la mia modulazione, quindi nessuno mi deve rompere le palle, capito? Avanti back. Benissimo, 9+20 quasi, radio 5 è perfetta da parte mia, io sono un po'. Vai vieni perché sto guardando la partita, comunque. Qua stai arrivando benissimo, vediamo un po' se arrivi bene da Marco. No, Marco non c'è. Antonello? Sì, quasi va bene, grazie a Dio. E beh, come va, chiudo il ginito. E tuo padre? Che fine ha fatto? Non mi dice che sta modulando col virus, no? Ti sento pure io la sassa di dai che ero un pochettino sdraiato, mi stavo ascoltando, ti sento anche io, ti sento, dai. Antonio, da questa parte da Sassari. Posso? Ti ho chiamato. Sì, però io mi assento, vi ascolto volentieri perché ho la TV accesa e a basso volume. Voglio vedermi la partita, mi sto guardando la partita del Real Madrid Inter, ok, quindi vi saluto, rimango in Querix, semmai più tardi se coincide, altrimenti a domani. Saluta babbo, saluta mamma, saluta tutti. Ciao Antonio, ciao Antonello, ciao Marco, il microfono per Marco, dai, per me QRT, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo. Cappa Claudio, dai, ci sentiamo. E alle prossime, dai. Buona visione. Allora, siccome sto staccando, volevo dare solo un controllo a Claudio da Muros. Allora, 9+5, radio 5. 9+5, radio 5, zona Cinema Ariston. Quindi qua tutto a posto. Non è abbastanza buono come segnale, anche come radio. Dai, quindi QRT esecutivo, rilancio per Luca, se c'è ancora. Luca, sì. Cappa, dai. Guarda, se mi senti. Se mi senti a me. Sassare adesso se cazzo gli è preso, aspetta un attimino, ha rotto le balle. E Anto, alternata e saturazione, però Claudio ti dovrebbe copiare, dai. Claudio, riprendi il quadretto esecutivo, ciao. Ma mi copi Claudio D'Amuros? Appada, io vi saluto, dai, adesso chiudo per sempre. Ciao, ci sentiamo alle prossime, ciao. Sì, dimmi tutto, sono qua, arrivi bene, fa un passaggio. Sta uscendo bene. 9:25, era 5 a bomba di qua a casa. Sì, perfetto, salto lì a tuo padre, che non ho più sentito la verità, infatti già ti sento bene, a voi ci mancherebbe. Sì, perfetto, sì, esci veramente bene. A Puglia, il 27 sì, perfetto. L'unica cosa che ti manca, sai cos'è? Il PMR. Mettiti lo stesso di VHF, VU, e almeno sei tranquillo e parli anche in PMR, insieme a noi. Io sono andato diverso, la verità. Comunque sia, se vuoi provare, se mi senti con l'antenna in gomma, dovrei andare alla finestra di casa tua, vediamo se mi senti, là. Sì, prova là, io sono su 7 in PMR, sono con l'apparato cinese in pratica, stazione mobile più che altro, non portatile, quindi a un certo punto facciamo la prova là, vediamo se mi senti, e siamo a posto là. Dimmi tu quando sei pronto e ti mando l'idrogen BP quando parto, quindi mi sentirai penso, prova un po', non costa niente, vai su canale 7. Basta dire a tuo padre di rimanere dove c'è il baracchino e tu rimani, che arriva nella finestra, guarda, non ti cambia nulla, no, penso. Via, basta mangiare, non c'è problema, poi tu vai nella finestra, vediamo se mi senti, da. E appunto per quello te lo sto dicendo. Pronto, sono, mi senti il bipi, guarda, in diretta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, canale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vediamo un po' se lo sento. Non arriva un tubo, non arriva nulla, niente. O se arriva ma al muro, se no. È strano però, perché cazzo sei, è un ciatto, cazzo sei sotto in pratica. Ok, va bene, già sono qua. No, a me è sentito, mi ha lui. C'ho il bipi quando prema, guarda. No, guarda, a me. Senti cosa senti. Ho capito, capito. Aspetta un attimo, mi viene in mente una cosa, aspetta 2 minuti. Facciamo la prova, aspetta. Vediamo cosa succede, aspetta. Cosa adesso senti qualcosa? Senti niente? Ok, vabbè, comunque è puntata rossi questa antenna. Quindi a un certo punto perlomeno, forse sentirmi una cosa del genere. Ok, da. Come lo dicevo, qui c'è un bimbi, cazzo, mi sembra un 18, Mi senti con bimbi, sì. Quanto è il segnale, Cla? Me lo sono immaginato, guarda. Non senti un tubo da lì. Cla, quanto arriva il bimbi, il coso, il segnale del bimbi? Cla, non mi senti resido, allucinato, non mi senti perché non ce la fa. Anche se interna, antenna, non va bene. Non mi senti. Me ne sono accorto infatti. Ci vuole l'antenna giusta e l'apparato giusto, la verità. Quella bianca, la X700 con un apparato mobile cinese che tira fuori 40 watt d'uscita, figurati tu, non so se lo portate, sono un un apparato che si usa in casa a 12 volt. Ma la stessa antenna che ho io, che ascolti tutto, la bianca, te la ricordi quella che ho? Che ho usato sino due volte, non di più. Ma sto usando in terrazzino, detto terzino, la verità, e funziona veramente bene. E se metti i problemi di capo, c'è il capo che va incontro. Adesso il capo è a posto e ricevo tutti, tutti i punti, tutti, uno per uno. No, quella lunga è l'X300, quella lunga bianca, soltanto quella sto usandomi, no? Non sono altre, c'è solo l'antenna, no? La verità. Quindi figurati tu, esce bene, veramente bene esce come antenna. Sono veramente contento, pensavo che stavo per buttarci la verità, e invece funziona bene. Adesso non ce la butto più, figurati tu, esce benissimo in tutte le frequenze, che ha solo problemi di capo e basta, non c'è altro. Quindi figurati, c'è il capo che l'ha incorto. Guarda, se no, se fosse stato un'antenna che non serve a niente, non sarebbe uscita così. Guarda, senti un po', eh. Lo senti? E ha voglia. Tu usa X300, l'X600, anche per i PMR, quello che è. C'è gente, ma quanto bella un'antenna come si deve? Ce ne sono tante di X300 anni in vendita, quante ne vuoi? E cosa vuoi fare con le mature? Ormai sono un'altra frequenza delle mature, sono tutti quanti digitali, cosa parli col muro? Cosa te ne vai? Boh, ce le ho due portate io se vuoi le materiali, nuovi della Inter che sono, 2,50 se li vuoi, 30 euro. Quindi figurati tu, ma non ci parla quasi mai nessuno, quindi parleresti con uno in teoria. Beh, se vuoi parlare, a voi piacere gente, quanto ne vuoi. Parliamo tutti in PMR, basta pigliarti l'antenna, cosa ti, non ti costa niente, no? Tra, 2 a 2. Sarò visto, sì, buono. Che palle. Sì. Ok, basta avere i soldi, ti compri le apparecchiature, antenna, quello che è, un'antenna per quello che ti serve più che altro, e sei a posto. E non c'è nessun problema. Quindi, già va bene, va bene, ti lascio là. Ci sentiamo domani. Io me ne passo in QRX, ascolto, sto facendo roba, picchiato un lavoro adesso. Ci sentiamo al limite domani, da. Dammi bene, saluto mio babbo, mi raccomando, Vedi che si faccia la cura della voce in modo che non sia troppo amplificata, che sia mezzo soffocata, che sennò crepa i microfoni. Ciao, buonanotte, ci vediamo alla limite domani, stammi bene, salutami a babbo, a tutti, e non ti preoccupare per quello, ok. A domani, ciao. Ma l'antenna per la canna non ce l'hai? Ho capito, dai, io mi hai parlato sopra. Ho detto l'antenna per la canna non ce l'hai. L'antenna per la canna? Sì. La canna ce l'ho, la canna da pesca, ma l'antenna non ce l'ho. In pratica con la filo non ce l'ho io, ci sono messo la canna. La canna al culo non ce l'hai? Manco per il culo, no, quella te la tieni conto. Fa culo a te. Assolutà, ma con la canna al culo c'è la pomponio. Io me la vince, chi è DJ? Ma se tenevi varia. Chi? La vincerita, ma con piacere la Madrid, ma la squadra italiana, non so anche in turista ma interno. Speriamo che la vinca, perché la deve vincere, così passa agli ottavi. No, oh, una sera. chiaro che solo che vabbè, il gioco è quello. Inter sta giocando la partita sua, l'Inter non ti preoccupa, che giocate del Madrid, ma dici due giocatori che c'hanno un culo, mi abbassa. Posso raccontare pure che non si fidava. Ma che non ti fidi, o che c'è gli attaccanti che vuoi a Madrid, buttino c'è l'orecchia. La vedo grigia, Se pari non va bene. Non so com'è nel girone lui, perché ne ha già perso una e pareggiata un'altra. Oh, la Juve non è posta, non è posta meglio me. Pompo, quasi bene. La cara ti stai uccidendo, Pompo. Che brutto lo stadio vuoto, per carità. Ciucca ciù. Questo Covid ha fatto un danno, guarda. Un danno allucinante. Però c'è un pompo, ma la canna ti stai lucidando? Non ho capito, se sto lucidando? Ti stai lucidando la canna. Ma non avete già fatto, pompo? No, la canna non la sto lucidando la testa. Ce l'ho tranquilla, grazie a Dio. Me lo vuoi dire? Cos'è che mi hai detto l'altro? Non ho capito, se mi sto lucidando che cosa? Più male va della bocca. Voi pari due, cazzo, boh. Pompo, ma sono un cazzo, buso lo sei diventato, boh. Se mi parli sopra, sì. Chi è che ti parla sopra, boh? Ho detto, se ti stai lucidando la canna. Ho detto di no. Oh, c'è uno che ha parlato sotto, non ho capito cosa abbia detto. Altrimenti l'ho detto amplificato, non ho capito un tubo. Hai capito adesso? Sì, gli ho capito. No, non so, sono io, se sono quello, ho fatto finta di avermi detto qualcosa e poi si è tappato, il discorso è quello. Cazzo, allucinante, cazzo, allucinante, sempre questo capo di pallone. Sta giocando bene lì, te la tutti i bini, cazzo, tre palle gol in 5 minuti ha avuto. Allora, la Real Madrid sta mollando, No, è una grande squadra, ma c'è Ronaldo, Neymar, tutti quelli, avevano per più di più, e il cacciolando l'ha fatto, queste sono le cose fatte male. Chi vince, chi perde? Chi sta vincendo? Sta pareggiando 2-2. Va bene, dai, quando è 2-2 se la piglia in culo, a un certo punto, cazzo, non c'è bisogno di bisticciare, no? E, accidenti. Sette di televisore qua a casa, in casa mia, figurati. No, grazie. Devo tutti comprati con reddito di cittadinanza. Non me la frega niente. Cazzo, senti, pure uno in bagno, no? Sette, c'è uno anche in bagno, sì. Bravo, ci sei arrivato. Se facciamo la cacca, te lo guardi? La cacca? Cazzo, buon po', ma claro, mi sa che a Pompuglio che non lo regaleremo che su, si chiama, Amplifon. €6.000, due Amplifon mi hanno girato, te lo sto dicendo, è da vedere, €6.000, due Amplifon, quindi i mini addirittura, non solo l'altro, ho detto fa la cosa, piglia per il culo qualcun altro, ho detto è meglio. Antonello, a quest'ora c'è la radio bassa. Già ci sento, non ti preoccupare, già ci sento. Bassa frequenza, cla. Allora. Bassa ganna. È in bassa frequenza, Antonello, a quest'ora, non devi cercare. Cazzo c'è tanto che hai già radio e c'è Penoghi. Fammi guardare la partita e commentare con Luca, cazzo. E commenta, ma qual è il problema? Mica la guardo la partita io. Beh, commentala. Cazzo, ma dice il bindaccio, me. Cazzo, perdemi. Sto contratto, l'hai visto? Quanto è? Bastano quei due giocatori, mi ha detto. 3-2, la mazza di te ne vari. Cazzo, ma dice il bindaccio, me. Oia, per carità, guarda. A Rodrigo, beh. A pure rimane in panchina, che per fare un raio, beh. No, bestemmia adesso, là, se viene male. Se bestemmi viene male. il calcio è il calcio, mi. Se loro sono corrotti, non è colpa tua, no, che c'è il Covid-19. A chi pagare più? Sì, ho capito, ma ha fatto un cambio, ha messo due freschi. Poi Rodrigo è micidiale sulla fascia. Venga a segnare, che... Vai, è tutto bello, vai. Vabbè, c'è ancora un po' di minuti. Vediamo se recupera, vai. Metti a tu... Falli... Giocare a tutto bello, né? Così amelo... Amelo finisce il calcetto. Falli, Antonio. Al capo di tutto bella, fai giocare che è meglio. Oh, yeah. Per carità, guarda. Stiamo andando bene già. Cosa ridi? Andiamo, e andiamo, direttore. Prendila. Prendila, no. Metticela dentro, che è meglio. La mia sorella deve andare lì a fare un botto d'ora, ci muoni a botti, persiglilo! Vai Paolino, non c'è problema, vai Paolino! Sono un culto del Madrid, mi non appende nulla, mi. Non ho una bugata, non mi sono troppo spazio. Non hai visto, non hai spazio, cazzo, ma spazio da mare. Cazzo, facci disarmare, mi è arrivato basta. Infatti, perché così gioca l'Inter, è troppo larga, sta giocando, troppo larga, deve stringere un po'. E poi non rientra in fretta, Il gioco di Conte, il Conte gioca così, gioca così lui, con 4-3-3, non venuto da là. Qua Juve giocava 3-5-2, non lì che giocando 4-3-3, ecco, manco una mano la toccata, l'hai visto? L'ho visto, il nome è Pessa. Minimo c'è 5 minuti nel recupero. Allora lì se la mette a posizione, se la tira Politano da lì gliela mette dentro, guarda, Politano di sinistra, mi abbassa. Allora io ci vado là, Italia va. Sì, un culo, col Ninja è rientrato con l'Inter. Minchia, ragazzi. 19 anni c'ha quell'attaccante, a chi? 19? Allora, da 19 anni, Jacopo, prendendo 3 milioni di euro all'anno. Cosa c'è che andano a 30? Se si può dire che arrivo. E gli arrivo là, il fondato muro è di guru. Oppure se non ce ne agganna. Si inizia a giocare da giovane e li mette da parte i soldini. Cazzo, manco male che la farà da ragazzi. Sta attaccando di nuovo l'ora adesso. Ti stai dicendo che a carattere del Madrid era la squadra più forte al mondo assieme a Barcellona. Quando c'era Ronaldo, Neymar, ne ha venduto un bel. Certo, Neymar ha venduto 120 milioni di euro. Cioè, cosa vuoi dire? 220 milioni di euro. Finita, 3-2. Porca puttana. Bello, Garie, buonanotte, ci aggiorniamo domani, vai. Spengo tutto qua in stanza, me ne vado un po' verso Roma. E poi ci vedrà. Ciao. Ciao. Ehi, ciao, capo, buonanotte anche a te. Ciao, Pompù.